Pigi il verde ora. Ma subito. Te ti addormenti. Pigi il verde, dai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dentro Higuaín, bel pallone, arriva la chiusura, poi Gonzalo, Higuaín, 2-1, ma non esulta, non esulta. Desmo Dovi sta arrivando, affronta il penultimo rettilineo, è davanti a Valentino Rossi, da dietro la leggenda guarda e probabilmente apprezza fino a un certo punto la vittoria che sta capitando nelle mani di Andrea Dovizioso. Curva 15, guarda avanti Dovi, è tua! Dovi Power! Dovi Power! Dovizioso c'è e vince davanti a Valentino Rossi! Va Bonaventura! Sotto la barriera! Porta in vantaggio il Milan! Secondo gol in campionato! È 1-0! Si avvicina al traguardo ed è la storia per Lewis Hamilton che conquista la 51esima vittoria della sua carriera! 1993 con Alain Prost che in Germania conquistava la 51esima e sua ultima vittoria in carriera sulla sinistra! 51esima vittoria! Occhio a Bruno Fernandes che prova a girare, attenzione, tocco in mezzo per Quagliarella, 1-0 Samp, gol convalidato, tutti i difensori dell'Inter a protestare, Quagliarella fa 1-0 sotto la sua. Eccovi qua ragazzi, una spremuta di tutti i temi, riassunto sonoro di tutti i temi di questo weekend, mica male, da cuore ingrato Higuaín a Dovizioso che vince con la Ducati il suo secondo Gran Premio in carriera, io sono felicissimo di questo. E tutti i temi di cui parleremo, il Milan di quelli che ad esempio Maurizio Corazzetti su Repubblica definisce la squadra dei campioncini con i brufoli, una delle squadre più giovani d'Europa, l'unica a tenere il passo lì davanti, anche perché la Roma si incarta contro il suo portiere, cioè Skorupski, che para anche le mosche. Poi c'è il pasticciaccio brutto in Messico perché gli italiani sono andati a letto con Vettel quantomeno sul podio, anche se soltanto terzo dietro ai due imprendibili, e si sono svegliati con la notizia che invece no, qui è arrivato quinto perché l'hanno penalizzato, insomma un casino. E infine avete sentito la voce di Pardo raccontare il gol che ha rimesso De Boer sulla graticola. Ciao Pierluigi, come va? Io bene, De Boer non so. De Boer mi sa che più di là che di qua, Più di là. In senso ovviamente ci mancherebbe altro, in senso agonistico, mi spiace, anche io l'ho visto, insomma. Umanamente mi spiace molto. No, ma è chiaro, però insomma credo che siamo ai titoli di coda. Poco qualcuno ci aggiorna, sì. che è sul pezzo e ci aggiorna, però... Ma anche se dovesse andare avanti, ti dico la verità, se dovesse passare a nuttata come dicono a Napoli e dovesse accomodarsi in panchina e partire mercoledì per Southampton e giocare giovedì, i margini sono strettissimi, a quel punto dovrebbe veramente dovrebbe vincere a Southampton, battere il Crotone e mostrare nelle prossime due partite segni clamorosi di crescita, che al momento sembrano abbastanza complicati. Oggi in giro è pieno di Harry Potter e Halloween, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, nemmeno Ronald De Boer, che lui dice brutto primo tempo, a me è sembrato brutto anche il secondo, cioè sotto 1-0. Praticamente nessun tiro in porta se non quella traversa casuale di Palacio, poi Perisic e Palacio dimenticati in panchina per lungo tempo, insomma questi sono alcuni dei capitoli, dei capi di imputazione nei confronti di De Boer che poi insomma abbiamo anche riassunto e vi faremo ascoltare. Quanto agli altri, Pierluigi, la Roma che si incarta su Skorupski, Roma che ha giocato sinceramente premendo molto soltanto gli ultimi 10-15 minuti, lì Skorupski ha fatto un paio di parate compresa l'ultima sul tiro di El Shaarawy, meravigliose, però insomma, se vuoi stare in scia di una squadra imprendibile come la Juventus, è un po' poco 0-0 ad Empoli. Sicuramente, la storia di Skoruski, che fra l'altro è di proprietà della Roma, è abbastanza incredibile, e rimane il dato di un'occasione persa. L'Empoli è una squadra molto fragile in questo momento, è sicuramente più fragile, cioè tra i difetti che ha c'è soprattutto l'incapacità di segnare più che la fragilità difensiva. Anche con la Juve era stata in partita per tutto il primo tempo, per i 60 minuti, però la Juve ha messo il turbo con Higuain, Dybala, e la differenza è un po' questa, mi sembra. Tutto si alla fine si riduce alla capacità di superare i problemi, di venire fuori dai casini che la Juve ha e che le altre squadre non hanno. Questa è la sostanza, proprio molto, molto semplice, perché è chiaro che se parliamo della categoria della bellezza, la Juve è lontanissima dagli standard, ma anche parliamo di prega, se, no? Anche ecco. Lì parliamo di estetica, cioè, Di estetica, esatto. Infatti io credo che ci sia questa cosa qui, ci sia proprio questo grande equivoco, il fatto di confondere la categoria dell'efficacia con quella della bellezza, e sono due cose diverse. La partita dell'altra sera lo dimostra, quella fra Juve e Napoli lo dimostra in maniera precisa, in maniera precisa ed evidente. Poi si è parlato di Coren grato Higuain, sai, il calcio è bello anche perché ci sono delle storie che sembrano già quasi scritte, cioè che Higuain segnasse in quella partita il gol decisivo era non c'era quota, bravo Pierluigi. Poi non ha esultato. Ne abbiamo parlato anche ieri con Capuano. Però senza Goulam, magari, adesso non me ne voglia Goulam, che è un buon giocatore, ma voglio dire, poi alla fine, secondo me, la grande differenza fra Juve e Napoli dell'altra sera è semplicemente nella quantità di errori. È che il Napoli ha fatto degli errori, un errore e mezzo, gravissimi, con Goulam, che la Juve non ha fatto. E questa è la sostanza. Capacità di non fare errori e capacità di approfittare degli errori dell'avversario. Certo, poi ci sono Milano e Lazio che tengono il passo, e c'è una Atalanta che è sempre più sorprendente, in questo momento nettamente squadra rivelazione del campionato, io direi. 800 24 00 24, il numero verde, messaggi 349 238 6666 per i vostri scritti su messaggi e WhatsApp. Ci fermiamo un istante per il traffico, poi torniamo con le ultimissime sull'Inter, vediamo che succede. Stiamo aspettando anche una superstar, nostro amico tifoso molto competente, adesso passerà di qua. Poi avremo Aldo Serena che è comparso, ha commentato la partita di ieri sera con la Sampdoria, insomma un sacco di cose, ma non solo Inter, perché poi andiamo su tutti gli altri temi. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Popovie. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Io ho visto oggi un primo tempo molto brutto da noi. Non possiamo accettare questo, perché contro qualcuno squadra è sempre difficile per vincere dopo. E possiamo parlare di questo, perché per me non è possibile, che la differenza contro Torino e oggi. Allora, questo era Frank De Boer. Io sono peggio di Vialli, ho in comune solo la pettinatura e la barba, perché anche Vialli ieri sera, come me prima, lo ha chiamato Ronald. Pierluigi, ci ha raggiunto la superstar, una delle superstar di Radio 24, che ho annunciato prima, ed è Enrico Ruggeri. Buongiorno, buongiorno. Suonato a Mantova l'altra sera. Bravissimo, no? Eri anche tu a Mantova, ci siamo sfiorati. Ero già ripartito, altrimenti sarei venuto. Ci siamo sfiorati, sì. Però da che parte stai? Che faresti? Ma intanto a me piacerebbe avere una società che parla, che interviene, che prende posizioni, qualsiasi essa sia. Io rimpiango Moratti, io sono uno di quelli che dice preferisco arrivare ottavo con Moratti divertendomi piuttosto che quinto o quarto, perché di questo stiamo parlando, con una società indefinibile. Cioè, sono un interista romantico, e quindi sicuramente questa è la situazione meno romantica, non tanto perché si perda, perché insomma, da interista sono abituato a serie di sconfitte Ma mi dispiace non vedere nessuno in sala stampa, vedere De Boer, che pure non è il mio allenatore preferito, però vederlo solo, abbandonato a gestire tutto, senza il Moratti della situazione che prende la situazione in mano. Sì, i cinesi del Milan non si sa ancora bene chi siano, però intanto però almeno hanno oltre a Galliani c'è anche Fassone, che era all'Inter, l'hanno preso e hanno detto ok, adesso comanda lui, certo, e poi definiamo. Perché quello è la cosa importante. Se poi dobbiamo parlare di De Boer, certo, secondo me è stato poco umile, è arrivato con uno staff straniero, Mourinho quando è arrivato in Italia aveva un sacco di italiani, da Baresi a, certo, a Oriali, persone che gli stavano vicino, quindi secondo me lui va a giocare con squadre di cui ignora tutto. Non è un caso che l'Inter ha fatto la miglior partita con la Juve e con la Roma, con la Juve ha vinto, con la Roma ha perso, ma ha fatto due belle partite. Dopodiché a me dà l'idea che quando incontra l'Empoli, il Cagliari, la Sampdoria, l'Atalanta, non abbia avuto l'umiltà di informarsi, di vedere un po' come giocano queste squadre. Sì, cioè, abbiamo in linea Oltrapardo Aldo Serena. Aldone. Buon pomeriggio a tutti, ad Enrico in particolar modo, perché io mi ricordo quando veniva ad allenarsi ad Appiano con noi con gli occhiali bianchi. Bravissimo. Come con gli occhiali Fisi bianchi? Gol a Recchi. E Evaristo mi dice che me l'hanno fatto fare e quindi non si saprà mai, e gli dico di no. Evaristo è un noto bugiardo, tu lo è sai. Un noto bugiardo, è un grande faticatore, no? In grande, campo, quindi, grande insomma, faticatore. E poi c'è Fabrizio Biasin, che invece cui chiedo un rapido aggiornamento, così lo facciamo sentire anche Enrico, ecco, Ruggeri, sulla situazione attuale, lo stato dell'arte su De Boer. Ciao ragazzi, intanto ciao. Buon pomeriggio a tutti. Guardate, la situazione è abbastanza grottesca, perché io come altri mille colleghi abbiamo provato a capirci qualcosa, ma in questo momento non c'è chiarezza, perché non c'è chiarezza tra chi deve prendere una decisione, e questa secondo me è la cosa più assurda. Cioè, se tu venerdì dici a tutta Italia e tutto il mondo questo allenatore non si tocca, siamo contentissimi di lui, in teoria non si dovrebbe porre il problema. Hai dato fiducia al tuo tecnico, vai avanti anche se ha perso 1-0 a Genova. La verità è che qui si cambia di altri giorni, e quindi siamo in attesa di capire cosa succederà. C'è chi dice andrà a Southampton, fatalmente si schianterà anche in Inghilterra, e poi potrebbe venire chiamato, potrebbero esserci i nomi di Pioli o di Guidolin, si dice anche di Blanc, ma io ci credo di meno. Ma ti posso dire, sarebbe secondo me allucinante, cioè se tu hai deciso di farlo fuori, usiamo i termini brutti ma reali, e allora cosa prolunghi l'agonia? Cioè licenzialo e vai avanti con anche solo Vecchi in panchina giovedì in Inghilterra. Cioè prolungare la sofferenza mi sembra anche ingrato nei confronti di un allenatore che ci ha capito poco, è vero, ma probabilmente è stato messo su un barcone già abbastanza traballante, perché ricordiamoci è arrivato il 20 di agosto con giocatori non scelti da lui, con una situazione abbastanza allucinante. Sì, ma quindi se questo vince una partita su due, magari una la pareggia, una la perde, una la vince, una la perde, una la pareggia, una la perde, rischia di andare avanti fino a aprile, no? Esatto, ogni volta strappa i cardi, tira fuori dal cappello il gol col Torino, allora De Boer salvo eccetera, poi si perde a Genova, allora quindi insomma in effetti andrebbe presa una posizione, anche perché oggi si gioca ogni tre giorni, per cui non è che puoi dire aspetto un momento in cui arriva un allenatore, c'ha 15 giorni per prendere contatto con la squadra. No, certo, però c'è ancora un turno morbido col Crotone e poi la sosta per la nazionale. Sì, però ormai le soste per le nazionali sono come dire, un falso sollievo, perché poi gli allenatori portano via, si trovano con sei persone. Perché dopo c'è il derby, poi c'è Inter-Fiorentina, per dire, poi c'è Napoli-Inter, quindi... Io quello che penso, diciamo la cosa razionale, nell'irrazionalità, fermo restando quanto diceva Enrico, cioè sul fatto che poi non è che le soste per le nazionali siano un'occasione per poter lavorare bene, perché le grandi squadre, comunque le squadre zeppe di giocatori importanti, hanno tantissima gente nelle nazionali. Però diciamo che se si vuole provare a fare nell'irrazionalità totale di questa vicenda qualcosa di logico, il momento migliore è consegnare la squadra al nuovo allenatore proprio in occasione della sosta, per consentirgli di poter lavorare bene, come è stato fatto per esempio a Udine con Del Neri. detto questo, attenzione, perché poi, adesso dico un'eresia, Inter-Crotone oggi non è più una partita così, è quasi, così banale. Non voglio dire che sia uno scontro diretto, ma non volevo dire questo. Però siamo per entrare in quell'ottica. Dico che il Crotone oggi è tornato ad essere una squadra di calcio e che oggi in questo momento l'Inter non si porta nessuna partita da casa. No, assolutamente. Questo nella maniera più anche totale. Conto, secondo me, come dicevo prima, che De Boer non sa neanche il nome di 3 giocatori del Crotone. E lui è veramente impreparato su squadre cosiddette deboli, che in realtà hanno tutte grandi organizzazioni di gioco. Bravo, corrono, naturalmente fanno della compattezza, come dire, tattica, un punto di forza, e lui ci si scontra. E questa sempre è l'analisi perfetta. Io saluto Fabrizio Biasina e chiedo ad Aldo Serena che ha realizzato la partita, se è d'accordo con Enrico Ruggeri. Cioè, mi è sembrata lampante la differenza tra una squadra organizzata come la Sampdoria, che andava a raddoppiare il portatore di palla dell'Inter fin dall'inizio, che impediva all'Inter di ripartire e di raggiungere le punte, che non ha concesso un tiro in porta, e il non senso che c'era dall'altra parte. Beh, il non senso, ecco, devo dire, il beneficio dell'inizio partita io lo do anche, perché si può sbagliare anche inizialmente, però durante la partita bisogna correggere gli errori che erano lampanti. Un Banega che un po' così ha deambulato per il campo, non è mai stato nella posizione difensiva vicino a Barreto, quindi imponeva una salita a Santon, liberando quello spazio dove i giocatori a Sampdoria, da Bruno Fernandes a Muri, si sono inseriti costantemente. Ecco lì, allora, o parlo subito con Banega, gli dico devi arretrare 10 metri, devi dare un occhio a Barreto, devi stargli vicino quando non abbiamo il pallone. Se non lo fa, sì, lo cambio, sì, e mi aspettavo, sì, nell'intervallo, sì, un cambio di questo. Poi ci ha messo anche giù a Mario nel secondo tempo, proprio è affondato il portoghese, che secondo me è un ottimo giocatore, certo, ma in certe condizioni come quelle di ieri proprio non ha dato nessun rapporto. Sì, se posso aggiungere una cosa su Banega, è anche vero che quando gioca indietro si dice è sprecato avere, bravo, uno come Banega che copre. Quando però gioca davanti, è un po' una coperta corta l'Inter in questo momento. Poi invece se Banega lo sposti dietro alle punte, come dice Aldo, dietro sono coltellate nel burro. Bravo, bravo. Che c'è passano. Barreto che nel De Boer. Io devo salutare Enrico Ruggeri perché è reclamato dalla redazione del Falco del Gabbiano, mi hanno detto. Quindi in bocca al lupo, fatemi sapere, ogni tanto passo di qua però a chiedere notizie. Ma il calcetto, scusa, posso fare una domanda di servizio? Il calcetto del lunedì c'è sempre. Ma non è calcetto è riduttivo, fa pensare a una. Ma io gioco proprio a calcio al lunedì. No, è calcio, non potrei cambiare giorno. Ma è il lunedì, è sacro. Gioco da quando avevo 18 anni il lunedì. Vabbè, solo perché so che poi torni a casa e guardi. Ma giocate a 7 o a 11? O a 8 o a 11. È più bello, è più divertente. È molto bello, è molto, sì, bello. E poi il calcio è l'unica occasione che hai per non pensare a nulla nella vita. Ma Serena non viene mai? No, ma noi non siamo in quei livelli. Serena ha dei problemi alle ginocchia, è conveniente che io non vada. Beh, ma che noi abbiamo tutti dei problemi. Quello è... Io praticamente non ho più le ginocchia, quindi... Ti ringrazio, Enrico. Ciao. Ci sentiamo dopo con il Falco di Gabbiano. Io altri spunti da sottoporvi, perché il perfido De Luca mi ha fatto una lista delle spine di De Boer, a cominciare da Gabigol, pagato 30 milioni e sparito dopo Inter Bologna il 25 settembre 2016, sua unica presenza. Con Dombia, che è sparito dopo la sostituzione, dopo 28 minuti di Inter Bologna, poi riapparso con l'Atalanta per una mezz'oretta, ufficialmente infortunato. Perisic, giocatore cui io non rinuncerei mai e che invece è stato messo ai margini delle rotazioni, ha giocato solo 18 minuti nelle ultime 3 partite ufficiali con Atalanta, Torino e Sampdoria. L'Inter non abbonda di esterni difensivi e anche quello è un chiaro problema. Santon gioca sempre, D'Ambrosio sparito anche lui dopo Empoli-Inter del 28 settembre. Jovetic ormai non lo convocano neanche più, come è successo ieri, solo 2 presenze sporadiche, 2 comparsate quest'anno. Biabiani sparito dai radar, ragazzi. Pierluigi. Sì, ma voglio dire, i giocatori che spariscono dai radar ci sono anche delle altre squadre, anche delle squadre che vincono, non è tanto quello, è che qui è tutto piuttosto casuale e la squadra non ha equilibrio, ha molta prevedibilità. Nella partita di ieri abbiamo visto il modulo che è rimasto sempre uguale, sono cambiati gli interpreti, ma non è molto difficile, ti dico la verità, è molto difficile. Una squadra che accende la luce per qualche minuto, ma non ha non ha compattezza, non ha il quid è l'X factor che hanno le squadre che fanno risultato, che le rende toste, che le rende piene di personalità. Ecco, questo l'Inter non ce l'ha. Ed è un problema enorme, perché comunque siamo arrivati a fine ottobre. Detto questo, io non ho cambiato idea nel frattempo, non ho cambiato idea. Penso che se questa scelta è stata fatta, la si debba sostenere ancora per un altro po'. E probabilmente è stato un errore farla. Questo sì, probabilmente è stato un errore farla, ma adesso se farlo fuori così, secondo me è un errore. Cioè, io non vedo l'uomo con la bacchetta magica che arriva. No, che però no, Pierluigi, sai che su questo non sono d'accordo. Secondo me è il momento di cambiare. E io, Aldo Serena, prenderei un allenatore alla Pioli, per l'appunto, e faccio un nome, è uno dei candidati insieme a Guidolin, che ridisegni un Inter quantomeno semplice e logica. Sì, io sono convinto di questo, che sia il momento proprio di fare la scelta drastica del cambiare allenatore, alla luce anche di una situazione che è successa ieri, il fatto che non sia stato convocato Gabigol, che non sia stato convocato Condobbia, lo stesso Melo, che sono tutti capitali della società Inter, e quindi vuol dire che non c'è una partecipazione, una cooperazione fra allenatore e dirigenti, perché a un certo punto portarli in panchina o no non cambiava nulla, le scelte si può fare lo stesso, perché però portandoli in panchina tu dai anche al mondo, ai media e ai tifosi una parvenza di una squadra che ha dei giocatori a disposizione. Così è passo proprio come dei giocatori esiliati e sono dei capitali per la società, e quindi si stanno deprezzando in questo, trattandoli così, e questo non va. No, certo, grazie Aldo, alla prossima. Ciao. Ciao. Pier, ci sentiamo dopo la borsa. Sì, magari con gli ascoltatori, se ci sono 80024, 0024, magari sono già tutti in maschera per la notte di Halloween. Comunque li aspettiamo. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Rieccoci. Convocati. Insigne si deve chiedere perché della sostituzione, io avevo la sensazione che lo avesse Grampi e quindi deve stare zitto e non rispondere più. Se c'è qualcosa da dirsi ce lo diciamo domani, quindi è un errore del giocatore. Deve stare zitto. Calma, sono un ribelle mamma, sono un ribelle basta, così ci morirò. Perché quando ero in pancia girava Ballanzasca e tu scendevi in piazza a vedere Dario Fo. Sono un ribelle mamma. Guarda, noi siamo arrivati veramente tanto sia al cross oggi sia al limite dell'area. Lui, almeno che ricordi io, ha avuto due o tre occasioni importanti. Una è andata a finire sul palo, l'altro un mezzo contatto, non so che è più questa, la terza ne avevo contata già un'altra anche il primo tempo. Quindi ha fatto il suo mestiere e Bacca deve fare i gol perché l'ha sempre fatti e perché è quello che sa fare meglio. Hai capito mamma? Sono un ribelle, non ho bisogno di te. Oh, ma non ti dimenticare l'assegno SIA, eh. E guarda che passo mercoledì, che c'è tanta roba di mimetici da allargare un po' in vita. Ciao. Vedere, sono un giocatore che sempre vuole vincere e sempre dare 100% in ogni partita. Però ha giocato molto partita, io voglio entrare con due giocatori molto freschi. Calma, sono un ribelle mamma, sono un ribelle basta, così ci morirò. Qualche spunto di ribellione abbiamo visto in questa giornata di campionato, no? Abbiamo cominciato sabato sera con Insigne che è uscito. Ma perché sto bene? Ma perché mi devi? Qual è la ragione? Ha appena tra l'altro fatto un assist meraviglioso per Caion. Anche Bacca non ha gradito. Montella ha spiegato come abbiamo sentito, pure Eder ieri sera si è arrabbiato al momento della sostituzione, del cambio, e abbiamo sentito le difese e i tentativi di spiegazione dei tre allenatori. Pardo. Sì, sono tre storie un po' diverse. Su Insigne, secondo me, Sarri forse ha perso la partita, poi manca la controprova ovviamente, però la mia sensazione è che in quel momento sta giocando Insigne, che sta facendo una stagione sicuramente negativa fin qui. Sì. Aveva appena fatto l'assist. E mi sembrava Napoli stesse benissimo, stava giocando benissimo. Era fatto anche secondo gli atteggiamento, nel senso che il Napoli adesso ha questo problema che paradossalmente è un po' corto davanti dopo l'infortunio di Milik. Chiaro. No? Chiaro. E quindi non aveva più cambi per poter eventualmente aumentare, tant'è vero che anche dopo il gol del 2-1 non aveva un giocatore da poter far entrare per aumentare il peso offensivo, quindi secondo me quella sostituzione è stata proprio tecnicamente sbagliata. Poi chiaramente col senno di poi siamo bravi tutti. Poi anche la giustificazione di Sarri, però scusa Piero, anche la giustificazione di Sarri, a me sembrava avessi i crampi, chiami il giocatore e dici come stai? Bene, hai crampi? No, sì, boh, certo. Lascio in campo, no, ha ragione sul fatto che certe scene non si dovrebbero fare, no, va bene, pubblicamente. Ma non ha, non, anche leggendo i soliti labiali regalatici dalle telecamere indiscrete, non mi sembra che abbia detto un granché. Perché mi hai tolto? Stavo bene. Sì, no, questo sicuramente. Bacca? Beh, Bacca è un caso direi un pochino più complesso, anche perché lì invece il labiale di Montella è abbastanza chiaro, è proprio della serie ti lamenti sempre, quindi è una situazione un po' diversa secondo me. E il caso di Eder secondo me è un finto problema, nel senso che Eder, la mia sensazione è che nella rosa attuale dell'Inter sia uno dei giocatori che invece si sta applicando di più. Ieri ha fatto una partita discreta, quindi addirittura non sono neanche sicuro al 100%, so che qualcuno adesso... Che la rabbia fosse indirizzata verso De Boer. Che quel gesto lì fosse volontario, e quel fosse non dargli volontario la mano... Non lo so, cioè potrebbe essere stato veramente... Cioè, magari era arrabbiato per l'andamento della partita... Sì, che non siano beccati, cioè non mi è sembrato un caso. Tanto è vero che poi da quello che mi risulta anche panchina dell'Inter non è che poi ci siano stati chissà quali strati. No, questo è vero. Che non si sono beccati sulla mano, e forse quella l'abbiamo forzata... in maniera ovviamente in buona fede, però forse sarà un po' forzata di fronte a quell'immagine lì. Francesco e Milano, Francesco è da Piacenza e Marco da Milano, che si è prenotato per primo. 800 24. Beh, 0024. Maurizio da Milano che fa... Maurizio da Milano? No, è la marcia, vabbè. Anche Marco da Milano è, sì, è giornalista, lo salutiamo. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, io sabato ero allo stadio, sono tifoso juventino di quelli che soffre, perché vedo la squadra che gioca malissimo, cioè non c'è mai mi sembrate diventati istinto. Tutti tifosi del Real Madrid, mi sembrate no, tutti Florentino Perez. Gli altri, Marco pensa come soffrono quelli dietro. Oggettivamente non c'è gioco, non so io cosa vi faccio fare in allenamento, perché al di là della fase difensiva, se ci fate caso, non c'è mai né uno schema per l'attacco, cioè c'è sempre la palla a Cuadrado o Alexandro e basta, cioè non c'è un automatismo, niente. Guarda, in valore assoluto secondo me possiamo discutere sulla qualità, sul peso specifico del talento del centrocampo juventino, che comunque sta recuperando un giocatore fondamentale come Marchisio. Però sinceramente non essere contenti di questa Juventus, che vediamo come settimana in Champions League, ma secondo me con Lione in casa insomma dovrebbe andare in un certo modo. No, manca Dybala. Manca Dybala. Sì, no, ma sicuramente manca. Io ragazzi, adesso non cosa, so che non che voglio vuole. Fare l'allegriano, anche se sono allegriano a tutti i costi. È chiaro che la qualità del gioco non è eccelsa. È lecito e doveroso Luigi, tu che vedi e commenti tutte le partite di Champions League eccetera, ma chi vedi giocare in maniera sublime in questo momento? Beh, Barcellona, Real Madrid, il solito Barcellona, Real Madrid, campionato... anche il Bayern in certe partite non sempre gioca in maniera ma in generale la Juve da qui quante sono? 14 partite stagionali di momenti veramente molto belli ne ha regalati pochissimi. Questo è indiscutibile, è vero. Però poi alla fine, dopo 14 partite, hips don't lie, in questo caso non è hips don't lie, non sono i fianchi, sono i risultati, le classifiche, tables don't lie, c'è poco da fare. Questa squadra è in testa alla classifica, a più 4 dalla seconda in campionato, e vabbè, uno può fare un discorso sul fatto che il campionato è facile. In Champions League è in testa al suo girone, eppure aveva cominciato con un pareggio interno. A me sembra francamente che sia giusto, doveroso e interessante il dibattito sul fatto che la Juve deve fare di più, ma secondo me lo sa anche Allegri che la Juve deve fare di più, ma lo sanno tutti, lo sa anche Buffon che l'ha dichiarato. Questa ad aprile è difficile pensare che possa fare due grandi imprese e poter quindi eliminare una grande avversaria che ti serve d'altra, per poter andare avanti in Champions League. D'altra parte, Pierluigi, se ti ricordi, esattamente un anno fa l'abbiamo ricordato mille volte, la Juventus aveva 12 punti, era in fondo alla classifica. Sì, ma questo però secondo me è un paragone anche fuorviante, perché l'anomalia era quella dell'anno scorso. Ma quindi, sì, è chiaro. Quindi fare il paragone con l'anno scorso secondo me ha poco senso. Ha senso, invece, secondo me, fare un discorso di buon senso, scusa il gioco di parole. Cioè, se questa squadra, che ancora non ha trovato sicuramente il proprio equilibrio, se ancora non riesce a servire come si deve Higuain, che sicuramente si sta divertendo meno di come si poteva divertire dal punto di vista di occasioni a Napoli, no? Perché sicuramente ha meno palloni a disposizione, però comunque segna, e questa squadra sbaglia pochissimo. Io ieri nel nostro domenicale parlavo di Bonucci, il gol di Bonucci, ragazzi, che è un gol abbastanza facile, no? Nel senso che è chiaro che è un regalo abbastanza di, però vai così al volo, però su quella vai palla, così al volo, un difensore centrale, vai così al volo a botta sicura, prendi questa palla e la butti dentro così e sfondi la porta come ha fatto Bonucci. Cioè non è tutto casuale. Poi che il fraseggio non sia all'altezza, non sia bello, non c'è dubbio, sono stati momenti in cui il palleggio del Napoli era sicuramente più gradevole, più gradevole esteticamente, però siamo sempre lì. Cioè, a momenti è stato anche più efficace, però poi alla fine il calcio è un gioco anche di episodi, è un gioco dove contano anche le prestazioni individuali, conta la capacità di approfittare degli errori degli avversari. Da questo punto di vista la Juve, ieri c'è stata Empoli-Roma 0-0, Empoli-Juve l'ho commentata io, sarà 60 minuti di noia, una Juve brutta, alla fine Dybala, Higuain 3-0, tutti a casa, cioè... Non è un dettaglio, Ma io ricordo comunque anche critiche da parte dei tifosi milanisti nei confronti di Ancelotti per un Milan che vinceva le Champions League, dal punto di vista dell'estetica, sì, del gioco. Ma sì, da un certo punto di vista può essere anche un qualcosa di positivo, eh? Sì, sì. Lo dico sinceramente, può essere anche un segnale positivo, non puoi che crescere da quel punto di vista. Francesco, prima del traffico. Sì, salve a tutti. Io volevo dire che sarebbe un clamoroso errore mandare via l'allenatore olandese, perché nel bene e nel male è stato l'unico che ha tenuto testa alla vecchia signora. Quindi lasciamogli il tempo di lavorare sul materiale umano di cui dispone, senza, è vero, farlo agire con una continua spada di Damocle della rimozione. Quanto a vecchie signore, poi, o a signore in rosso, volevo ricordare che Enzo, il grande Enzo Ferrari, amava dire proprio che la sua scuderia non era una squadra di calcio e che quindi rimuovere chi è al timone non migliora certo la situazione, perché l'azione sportiva sia sulle piste sia sui campi da gioco è fatta di tanti uomini, non è che cambiandone uno si migliora tutto il resto. No, e quanto alla Ferrari, però la soluzione è più semplice. Quanto alla Ferrari si sa che storicamente, e questo è un dato cinquantennale, trentennale, patisce l'organizzazione internazionale delle scuderie inglesi. Noi vediamo che in questo momento la Ferrari perde contro la Red Bull, che è una scuderia di fatto britannica, e perde contro la Mercedes, che ha il nome tedesco ma di fatto viene dalla Brown Grand Prix, e quindi anch'essa è una scuderia britannica. Quindi la lei Ferrari parla di si risolleverà... giochi politici, ma guardi, di questo parliamo più tardi con Leo Turini, che abbiamo già convocato. Piuttosto, a me con una battuta viene da dire che all'Inter manca uno come Enzo Ferrari, cioè un parafulmine, un proprietario, un chairman, come piace dire a me, a Pardo, in questi giorni, che all'Inter in questo momento non esiste. Traffico. Tutti convocati. Poi si fa fatica, ragazzi. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Tutti convocati. Torniamo con altri ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. D'altra parte, parlavamo di Juventus, che la Juventus deve migliorare, e questo era uno dei temi in discussione. Lo sanno tutti, lo sappiamo tutti, lo sanno anche i diretti interessati, da Allegri a Buffon. Sentiamolo. Non dobbiamo cullarci dietro a questi tre punti, perché sicuramente aiutano a lavorare meglio, aiutano ad essere felici, però se abbiamo delle ambizioni più grandi come quelle che stiamo coltivando, insomma, dobbiamo sapere che dobbiamo migliorare ancora. Lo sanno anche loro che devono migliorare ancora. D'altra parte, quelle dietro giocano un po' a nascondino. Il Napoli ha perso appunto confronto diretto, ma anche la Roma, dicevi tu prima, Pier, ieri siamo al paradosso. Non segna Dzeko, che l'anno scorso non potevano vedere neanche in cartolina, non riesce a schiodarsi dallo 0-0 di Empoli. Ed è chiaro che non è così che metti paura alla Juventus. Io direi che la Juventus gioca anche forse piuttosto tranquilla, sa che prima o poi il gol arriva, sente comunque di essere la squadra più forte. Sì, i 90 minuti della partita della Juve, di una partita che non si sblocca, sembrano infinitamente più lunghi dei 90 minuti della Roma di Empoli di ieri, cioè c'è molta meno precipitazione, molta più sicurezza, probabilmente più qualità, insomma, poi alla fine è questo, io penso che sia questo, alla fine no, c'è quel film, la verità è che non gli piace abbastanza, o gli inglesi a un certo punto hanno cominciato, dopo anni in cui si facevano domande su perché non vincevano mai gli europei mondiali, a arrivare alla conclusione che non erano bravi abbastanza. Uh-huh. Roma e Napoli sono due ottime squadre, sono due grandissimi progetti, hanno mille qualità positive, giocano un bel calcio, soprattutto nei momenti ovviamente in cui sono ispirati, però la Juve c'ha più qualità e quindi alla fine la distanza la fa tutto questo. Chiaro. È una differenza di qualità non tanto estetica, in certi momenti non è affatto una differenza estetica, ma è una differenza di efficacia. Sì. Quindi insomma, poi del resto è anche abbastanza normale che sia così, che la Juve quest'anno si è presa il miglior giocatore della seconda e uno dei migliori giocatori della terza, quindi anche se uno dei migliori giocatori della terza mi sembra che non stia ancora, a proposito della qualità di quel centrocampo, dando quanto abbiamo visto essere capace di dare in innumerevoli occasioni. Giorgio? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo spezzare una lancia a favore di Allegri, perché a tanti anche miei... Spezziamone anche due, tre, quattro, cinque. Sono juventino, ma tanti anche miei amici lo criticano. Dico, è arrivato la Juve, ha vinto due scudetti, dopo il grande Conte, ha vinto due scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe, una finale di Champions. Siamo primi in campionato, primi in Champions. Marico, arriverà il gioco, se non arriva speriamo che continui così. Sì. Piantiamola di criticare Allegri, lo dico ai tifosi juventini che sono diventati col palato fine. Ma non è questione, guardi, non è neanche questione di palato fine, è questione di un feeling un po' strano, un po' curioso tra l'agente della Juventus e il suo allenatore, e questo non si può cambiare nemmeno se la Juventus dovesse cominciare a giocare bene, perché una ragione per fare le pulce ad Allegri, io sono convinto c'è qualche juventino la troverebbe pure. Sì, ma questo è vero, l'abbiamo detto mille volte, insomma, la strada è un po' più in salita rispetto a quella che aveva Conte, è anche vero per onestà che questo non è un momento brillantissimo sul piano del gioco, cioè io non sto negando il fatto che la Juve non giochi benissimo, però penso che ci sia un eccesso di critica, ma quindi sono d'accordissimo con l'ascoltatore. Senti, prima di Alberto da Milano ti faccio sentire una voce di Marchetti, portiere della Lazio, e poi, sì, poi ti faccio una domanda. Marchetti, c'era un clima un po' così strano con le vicissitudini Bielsa, tutto comunque l'ambiente che era deluso, però il mister ha saputo toccare i tasti giusti, le corde giuste, si è messo subito sul pezzo e la squadra l'ha capito e ci sta dando dentro. Allora, dopo 11 partite facciamo diamo un risultato parziale. La panchina d'oro in questo momento a chi la daresti? A Inzaghi o a Gasperini, che sta facendo cose meravigliose con l'Atalanta? Beh, la darei... Puoi anche cambiare nome, eh? Sì. Io ti propongo questi due. Forse in assoluto in questo momento bisogna darla a Gasperini, perché il risultato è ancora più clamoroso. La Lazio per me è una buona squadra, io non... ne parlavamo col professor Marco Tulli, che insomma ti ricordi in estate, ne parlavamo lungamente sul fatto che poi probabilmente il non arrivo di Bielsa in realtà poteva essere un affare, poteva essere un'opportunità, ma non perché Bielsa non sia bravo, ma perché comunque certamente avrebbe creato grande entusiasmo, grande clamore, ma è un allenatore che si sarebbe dovuto adattare al calcio italiano. Inzaghi lo scorso anno, in quello scampo di stagione in cui si era visto, male non aveva, aveva fatto. Fatto cose buone. La Lazio è una buona squadra, perché la Lazio è una squadra che ha meno talento dell'Inter, tanto per fare un esempio, ma una squadra logica, razionale, con giocatori che sanno quello che devono fare in vari reparti, sì, con una panchina mediamente robusta, non clamorosamente robusta, ma comunque le competizioni sono due, e quindi è una squadra di grande buonsenso, ma a me non sorprende per niente la posizione in classifica. Non ti sorprende. Anzi, credo che se qualcuna delle grandi dovesse rompere, la Lazio può pure arrivare terza, perché no? Perché secondo me è d'Europa League come situazione di partenza. Sì, d'Europa League come situazione di partenza, ma questo non, anche questa non è una novità, perché l'abbiamo detto tutte le volte, dal punto di vista dell'organico. La gerarchia del campionato, quella che dicevamo all'inizio, per me era Juve, Napoli, Roma, prime tre abbastanza serenamente, e poi Inter, Lazio e Milan. Questa era la gerarchia che davo adesso, quindi alla fine siamo lì con l'Inter, che è la grande delusione, con il Milan che ha qualche punto in più, il resto è abbastanza in linea. Dall'altra però... parte invece c'è l'Atalanta di Gasperini, che tra l'altro sta producendo nuovi talenti per il calcio italiano, da Conti era partita male. Mi sembra che la scelta stia andando sempre più verso i giovani piuttosto che verso i senatori. Ma come no? Caldara, Gasperini, Petagna, secondo Conti. Me ha capito che doveva fare di testa sua e sta facendo molto bene. È un allenatore di grandissima qualità, esperienza, personalità. È uno che se a Genova lo sanno, è uno che se becca l'ambiente giusto fa cose straordinarie. Poi magari può essere un personaggio rispetto ad altri un pochino meno per tutte le stagioni, per tutte le occasioni, sì, no? Vero. Ha delle sue anche asprezze caratteriali che possono in certi casi, se le cose non gli vanno bene, metterlo un po' in imbarazzo. Però è uno che se invece becca il feeling con la piazza. Bergamo, poi attenzione, perché è città solo apparentemente di provincia, cioè c'è grande cultura calcistica, tifoseria molto calda, insomma, quindi ci sono anche delle condizioni perché si crei un effetto Genoa, e secondo me è quello che sta avvenendo. Poi anche Juric, adesso chiaramente le due sconfitte nel derby e quella pesantissima proprio contro l'Atalanta l'hanno un po' ridimensionato, però anche lui era partito bene. La medaglia di bronzo la diamo a lui volentieri. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao Alberto. Sì, ci sono. Dica la sua rapidissimamente. Allora, rapidissimamente, anche se so di dire cose ovissime per quanto riguarda la Juve, bisogna purtroppo ricordare ai più, sia tifosi che non tifosi, che questa Juve sta innanzitutto cambiando pelle, e non vuol dire che acquistare Higuain e Pjanic stai giocando a FIFA e allora il tuo overall sale. Sì, sì. Devi mettere, sta faticando a trovare un gioco inserendo Higuain e soprattutto Pjanic che a oggi... Ma è chiaro che sta cambiando, l'anno scorso c'era Pogba, poi l'anno scorso è andato via Vidal, sta cambiando pelle, si sta ringiovanendo pur senza perdere in qualità. Ci fermiamo per giornale radio, ma torniamo 800 24 00 24, parleremo molto di motori. Tutti convocati. Io gliela faccio più, ragazzi. Oh, mi fate fumare una sigaretta? Dai, mezza sigaretta. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Namo, let's go. Tutti convocati. Desmodovi sta arrivando, affronta il penultimo rettilineo, è davanti a Valentino Rossi, da dietro la leggenda guarda e probabilmente apprezza fino a un certo punto la vittoria che sta capitando nelle mani di Andrea Dovizioso. Curva 15, guarda avanti Dovi, è tua! Davanti a Valentino Rossi. La vittoria nel 2009, tanti anni, quindi provo a pensare quanta sofferenza c'è stata in mezzo. Era diventato quasi un incubo, perché più per questo mondo e per i giornalisti era diventato come un obbligo da parte mia. Sono contento che pensavano a me, però diciamo che era come se tutte le gare che non vincevo erano sconfitte. Erano sconfitte. lotte, ci ha fatto divertire, ma poi ci sono delle regole che vanno rispettate. Questo è un tentativo, come l'ha chiuso bene di traverso. Mamma mia, è stato super al limite, molto al limite. Non capisco come mai hanno riuscito ancora a fare la curva. Ma non è finita, non è finita. Si avvicina al traguardo ed è la storia per Lewis Hamilton, che conquista la 51esima vittoria della sua carriera, 1993, con Alain Prost che in Germania conquistava la 51esima e sua ultima vittoria in carriera sulla sinistra, 51esima vittoria. E sembrava così, Hamilton che riapre il mondiale, che vince la 51esima gara, che arriva davanti a Rosberg, terzo Vettel, e invece no, perché poi nella notte italiana, infatti oggi non lo trovate sui giornali, si è deciso di retrocedere Sebastian Vettel. Prima me l'ha mandato sul podio e poi gli hanno detto no, vai nell'angolo perché hai ostacolato Ricciardo, e dunque Ricciardo è arrivato terzo. Verstappen, che aveva fatto tutti quei numeri, vabbè, gli avrebbero dovuto dare forse 10 minuti, è andata così. Nelle moto, ieri mattina, invece, io sono stato estremamente felice, quasi fino a un pizzico di commozione, perché sono un cuore tenero, non è vero, ma faccio finta, per la vittoria di Dovizioso. Qui la coppia dei sogni per quanto riguarda i motori, Leo Turrini collegato con noi e Roberto Ungaro, The Voice, in studio con me. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei, con tutto il rispetto per Dovizioso, lanciare un hashtag dedicato a tutti i seguaci di tutti i convocati su Radio 24. Vai. Ferrari / Inter mai una gioia. Te l'ha suggerito De Luca? No, De Luca, io veramente, allora, a parte che devo fare un'altra aggiunta, poi dopo parlare di Dovizioso. Sì. La proprietà dell'Inter è a Nanchino e qui non funziona nulla. Il presidente della Ferrari è a Detroit e qui non funziona nulla. È proprio vero che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, nel caso nostro il cavallino, perché qui non c'è il padrone della Ferrari, non c'è il padrone dell'Inter ed è uno scempio. Quindi, caro gente, intervenga lei, faccia qualche cosa a mio beneficio, perché anch'io ero dal paletto convinto che Seb Vettel, dopo tantissimo tempo, avesse riconquistato il gradino più basso del podio, e ho onestamente scoperto all'ora del caffè che non era vero nulla e che anzi la potenza bibitana intesa come armata Red Bull aveva addirittura collocato Vettel alle spalle di Verstappen, che due ore prima era stato retrocesso alle spalle di Vettel per manovre irregolari. La Ferrari l'ha presa malissimo, dicendo ma quello doveva farlo passare, perché poi non c'era il confronto con Ricciardo. A lei, che è il Tolstoi delle trasmissioni radiofoniche d'Italia, mi spieghi qual è la logica? Vi faccio una domanda. Qual è la logica, caro Turrini, dietro queste sanzioni che governano la Formula 1? Mi faccio questa domanda. Io ti faccio questa domanda, professor Turrini, qual è la logica? Qual è la logica? Qual è la logica? Nessuna logica, c'è un criterio, nessun criterio. Qualcuno dice che gli inglesi dominano politicamente. Ma gli inglesi, che questi da Red Bull poi alla fine sono austriaci, tedeschi. Però, allora, una cosa vera è che a livello politico la Ferrari, che in pista va malissimo e quindi non perde per colpa, intendiamoci bene, delle cose strane all'asfalto, però a livello politico la Ferrari conta come il Beurre sulla panchina dell'Inter, cioè zero. Senti, però almeno ieri Roberto Ungaro in Emilia, Ungaro è un grandissimo, ma chiedete a Ungaro, va bene, allora, come l'ha presa? Aspetta che vado via e ci pensi tu. Ungaro, rispondi. Meno male, sei un uomo, Ungaro, rispondi. Meno male che c'è una rossa che funziona e ha due ruote in meno e si chiama Ducati. Belen ieri c'era, ma non si è fatta vedere, hai visto? Mai inquadrata una volta. Questa è stata la sua. C'era. Ma era fare una sauna, ma figurati, c'era. Io sono stato una vita Sepang, figuriamoci, con quel caldo umido appiccicoso pazzesco, se Belen era in box. Ungaro, non me la racconti giusta, cambia versione. Poi come i commissari di gara del campione di Formula 1 in Messico, dopo due ore, cambia versione, sei un uomo. Nelle moto, per fortuna, ci sono le certezze. La rossa è una rossa, è vincente. L'amore fra Iannone e Belen è un amore vero, che se ne dica. Io io sono d'accordissimo. Potete mettermi un pezzo di Toto Cutugno per Belen e Iannone 1980, si chiama Innamorato. Se lo mettete, io sono felice, perché ve l'ho detto, hashtag Ferrari barra Inter, mai una gioia. Non so cosa mi possa capitare di peggio. La sconfitta col Crotone a San Siro domenica prossima. Prima c'è quella con Southampton, Turrini. Vai, lì non considero, perché se ho capito bene le cose che lei, maestro Gente, ha detto, il bravissimo De Boer va in panchina anche giovedì. Non abbiamo indicazioni contrarie al momento. Allora io che devo fare? Penso già al Crotone. No, ma pensiamo dai, ma pensiamo a vabbè, Iannone ieri era Iannone è andato per è un mito. 35 milioni di maschi italiani che pensano che Iannone sia un simbolo come Bob Dylan per il premio Nobel. Vabbè, adesso non esagerare. Ma per me Iannone è veramente una figura totalmente. Sì. Guarda, allora, l'unica certezza che non c'è stata è che Dovizioso ha infranto la regola, perché i bravi ragazzi non vincono mai, e invece lui, che è bravissimo, ieri ha vinto, e sono stati tutti felici di questo. Hai visto come si sono complimentati con lui, non solo dal box, ma i rivali, i piloti, lo stesso Vale, che si è affiancato e gli ha urlato nel casco, perché se lo merita, è un ingegnere mancato. Ma scusami, posso farti una domanda? Dimmi. Io la settimana scorsa ho parlato col papà di Simoncelli, sì, perché erano i 5 anni della scomparsa, certo, il SIC, e poi GP tornava proprio in Malesia, no? Uh-huh. E lui mi ha detto, secondo me Lorenzo in Ducati si troverà malissimo. Allora, tu che sei uno del ramo, è corretta questa... Assolutamente sì. Uno per, la moto. Io sono ducatista, ho già fatto l'hashtag. Ferrari, Inter, mai una gioia. Adesso ti aggiungo anche Ducati, Lorenzo, mai una gioia. Guarda, questo per due motivi. Uno è un motivo tecnico, perché la Ducati è completamente diversa dalla moto giapponese. È un po' un toro imbizzarrito, anche se è molto domesticato grazie al buon Gigi questo Dall'Igna. Questo lo dice sempre anche Belen di Iannone. Esatto. E quindi questo è il primo motivo tecnico. Il secondo è che Ducati è una squadra a sé. Lorenzo non è riuscito a portarsi nessuno dei suoi meccanici, neanche l'ingegnere Ramon Forcada, e solo uno l'ha seguito, quindi parte da un foglio bianco, questo non è da poco, bisogna prendere in considerazione. Quindi bisogna essere pessimisti, no, sulla coppia Lorenzo Ducati. No, ci metterà un po', ci sarà un rodaggio più lungo del previsto a mio avviso, perché comunque la moto è competitiva, ma Lorenzo col suo caratterino. Ma più lungo del rodaggio Inter de Boer, No, più lungo no, perché il rodaggio di De Boer non ha proprio funzionato. Alla fine i risultati ha grippato. Vabbè, ormai ti accontenti di battere la Juve. Ho fatto il record d'ascolto quando l'Inter ha battuto di dopo. Vero. Perché è stata una cosa un po' come se Trump battesse la Hillary Clinton tra una settimana, e non ci manca molto, secondo me. Comunque, volevo chiedere a Genta, De Boer è ancora sulla banchina dell'Inter. Non ho notizie contrarie, ti ho detto. Se vuoi delle indiscrezioni, no, lei, caro Gita, a se vuoi ti do iscritto al famoso club presieduto da Pardo, Escape from the News. No, ma che Escape from the News? Cioè, se l'avevano cacciato via, te lo dicevo. Scusami, fratello, se l'avevano già cacciato, te lo dicevo. Io le notizie che ho dai corridoi, posso dire così, sono queste. Rimane, si schianta contro il Southampton, e poi arrivano Pioli, Guidolin o in subordine Blanc, che sarebbe tutti un'altra mezza cazzata. Tutti e tre insieme. Forse tutti e tre insieme, sì. Molto bene. Fanno una partita per uno. Renato, cosa farei, caro Gente, se non avessi la possibilità di confrontarmi con lei? Per me è veramente una fonte di ispirazione. Io lo dico qui su Radio 24. Gente, il più bravo di tutti, dai tempi di Nicolò Carosio a Radio Rai degli anni 30. Sono commosso quando ho la possibilità di parlare con lei, caro Genta, un po' come Vettel quando lo mandano sul podio e poi gli tirano via la coppa. Aspetta, quella coppetta lì, dammela, quella coppetta lì, ridammela un po'. Dammelo un po' indietro. Renato, buongiorno. 800240024, numero verde. Grazie per questa opportunità. Allora, dunque, tre cose rapide. Prima di tutto, condivido questa contentezza per la vittoria di Dovizioso, che è veramente una brava persona. Primo. Secondo, secondo me adesso si sta esagerando, cioè da qualche tempo a questa parte, perché uno come Vettel, può essere Vettel, può essere chiunque altro, se tenta di rintuzzare un attacco e si difende, viene sanzionato. Secondo me siamo alla demenza più totale, e questo sport ha un crollo d'ascolto e di audience, probabilmente anche per questo, perché veramente stiamo rasentando il ridicolo. Ultima cosa, vorrei sapere come va sulla Pero Cormano. Allora sulla Pero Cormano glielo dice Leo Turrini, invece sulla Roberto Pero Ungaro Cormano, aspetta Leo, aspetta un attimo, no, perché Roberto prima diceva a microfoni spenti praticamente la stessa cosa che ha detto Renato. Ha proprio bisogno la Formula 1 di questo regolamento, eh? Già fa fatica a strapparci l'attenzione e non farci fare zapping, e vai a dormire pensando a una cosa, ti risvegli con un altro risultato. Cioè io dico, ma è già veramente difficile guardarla, in più c'è questo regolamento che non si capisce, cioè è veramente darsi una mazzata, è qualcosa che non è che non l'aiuta, l'affossa, è una cosa incomprensibile a mio avviso. Sono professore d'accordo. Ma io sono d'accordissimo con quello che ha detto l'amichetto di Belen poco fa. Il problema della Formula 1 è che le regole sono astruse, bizzarre, non comprensibili per chi si trova, diciamo, da semplice spettatore di fronte al teleschermo, perché come si fa a spiegare il motivo per il quale Vettel, per aver tentato di resistere all'attacco di Ricciardo, da terzo che era, poi si ritrova quinto? È impossibile. Così come è impossibile capire questa cosa delle gomme, perché devono usare due tipi di gomma su tre disponibili? Dovrebbero essere liberi i piloti, gli ingegneri, le squadre di optare per la soluzione pneumatica che preferiscono. Detto questo, per rispondere all'amico che ha avuto il buon cuore poco fa di citare la Pero Cormano, c'è una coda. Ci sono tutti i familiari di De Boer su tre furgoncini che stanno tentando di raggiungere il confine tra l'Italia e la Svizzera. Sì, ma questo me l'avevi detto la settimana scorsa. Io lo confermo, sono sempre lì. Me lo confermo, sono lì, perché ogni tanto loro arrivano a un casello e gli dicono tornate indietro, perché i cinesi hanno confermato la fiducia a De Boer, loro tornano indietro. Poi dopo si perde un'altra partita, che per noi dell'Inter, hashtag Inter Ferrari, ma è una gioia, è un classico, e allora si rimettono in viaggio con tutte le suppellette, le vasserizie. Adesso stanno andando, però tu mi hai detto, caro Getta, che l'Inter si tiene il vecchio Franchi anche per la partita di Europa League, e io aspetto, che devo fare? Aspetta anche l'anno prossimo che Valentino magari torna. Beh, Valentino, secondo me, la decima prima o poi riuscirà a consacrarlo. Tu dici? Ma io sono pessimista, con la consistenza che ha, l'entusiasmo che continua a metterci, ovviamente il talento fuori discussione, perché no? Anche la decima. Poi alla fine è arrivato secondo, e magari se un paio di episodi non gli fossero stati sfavorevoli, penso alla rottura al Mugello, se la sarebbe giocata fino alla fine. Quindi sì, io sono ottimista. È il terzo anno che fa secondo, hai ragione, questo fa capire che il matrimonio con Galbusera funziona. Quest'anno è stato molto sfortunato, rottura al Mugello, ha sbagliato anche lui strategia di gara quando non è rientrato, però è ancora lì e può farcela. Comunque lui stesso ha detto contro Marquez quest'anno, non sono mai stato in gara, perché il Marquez di quest'anno era imprendibile quando si è messo a fare... Beh, sai, ricordiamoci sempre che Marquez... è davvero, potrebbe essere figlio di Valentino. Esattamente. È della generazione successiva. Cioè, quando parliamo di Formula 1, Verstappen è un matto, no? Uh-huh. Ma Verstappen, Verstappen come me li inquadri? Di Raikkonen, hai capito, no? Eh sì, ma come me li inquadri Verstappen? Perché Verstappen è tutta la mamma, perché io, sì, io so che è tutta la mamma, perché papà era un brocco di proporzioni bibliche. Io seguivo il padre, che è stato anche per un anno compagno di squadra di Schumi, così ricordiamo che ieri il figlio di Michael, Mick, ha vinto una gara bellissima a Monza di Formula 4, pur non essendosi aggiudicato il campionato. Io ho visto correre Verstappen padre, e devo dire con tutta franchezza, era un pippone inaudito. L'ho detto io. Quindi è evidente che il ragazzo ha preso tutto dalla mamma. La mamma raccontano che quando andava al supermercato a comprare i pannolini, schizzava via il semaforo, che altro che Hamilton ieri, no? Con quella là, curva presa alla larga. Dopodiché io credo che Verstappen sia un dono della provvidenza per l'automobilismo, perché da quando c'è lui in pista, fateci caso, no? Si discute sempre, ma la manovra, il sorpasso, il contatto, perché ha le stimmate del predestinato, è aggressivo, è... comunque uno che non ha un rispetto per le gerarchie precostituite. Il problema di Verstappen è che, in questo preso dal padre, temo, non ha il senso dell'equilibrio. No, esatto. Perché se tu a 18 anni dici che Lauda va rinchiuso in ospedale psichiatrico, che Jacques Villeneuve, siccome una volta una ruota persa si dà una sua macchina colpì un commissario, eccetera, è un assassino, che Raikkonen è un bollito rincoglionito, e questo tranne me lo dicevate tutti, quindi va bene. No, io no, io no. Che Vettel ha detto ieri è un idiota, un frustrato e uno che deve tornare a scuola guida. Allora, voglio dire, Verstappen poi ha 18 anni, io ho una grandissima ammirazione per la sua qualità di guida, ma finora ha vinto un gran premio più di me, eh. Sì. Vorrei che Verstappen riflettesse. Io e Gent abbiamo vinto 0 gran premi. Sì, Verstappen 1. E c'è un gran premio di differenza. Allora, anche qualche anno. Perché Hamilton è eguagliato Prost, ha vinto 51. Allora, potrebbe anche dire, beh, meglio di me nella storia ha fatto solo Schumacher, no? Cioè, Verstappen, un gran premio, tratta tutti come se fossero carne di porco. E insomma, qualcuno dovrebbe spiegargli almeno l'educazione. Però la Formula 1, bravo, bravo. Però la Formula 1, Leo, ha bisogno di ragazzi non bravi come lui. Meno male che esiste. Ma io guarda, io mi auguro che ci siano altri Bad Boys. Come stile, come rifiuto, come ho detto poco fa, della gerarchia preordinata. Ci mancherebbe altro. Sono quei personaggi che servono. Verstappen ha 18 anni, io penso a un liceale che ne ha 15. È chiaro che si entusiasma per un soggetto del genere. Certo, il suo coetaneo lo vede che fa ruotate con Alonso. Adesso gli mandiamo Belen, dai. Mandiamo Belen. Il problema però è che fuori dalla pista il suo modo di essere francamente debordante. Sì, questo io sì. Io non credo che sia obbligatorio accompagnare al talento anche la follia, la maleducazione no, la necessità di bad boys e di personaggi da Formula 1 ce l'ha bisogno, lui è maleducato. Però gente, io potrei essere tuo padre, ormai sono molto anziano. Quindi sono più sensibile a certe cose di bon ton che insegnavano quando io facevo le elementari nei primi anni 50. Tu l'hai fatta negli anni 80, quindi per te è diverso. Tu stai con Verstappen e io sono invece sempre per i guanti gialli. Ennio, Roma. Pronto? Pronto, dica. Sì, buonasera. Allora, due cose. La prima, penso che con questo regolamento, se fosse accaduto un incidente come tra Senna e Prost, avrebbero messo comunque in galera uno dei due. Seconda cosa, come mai il salto della chicane oramai non è più sanzionabile? Adesso le rispondiamo, messo in galera non lo so. Fabio da Treviso e poi abbiamo ancora un minuto e mezzo. Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie della convocazione. A lei. Allora io volevo mettervi anche un po' una pulce nell'orecchio. Io ho visto la gara ieri sera e secondo me il comportamento che ha avuto Vettel con Whiting nel momento in cui Verstappen non gli lasciava spazio e l'ha pagato poi, secondo me, è finita la gara. Sì? Quando gli è scappato il team ride, è stato siamo un po' alla dietrologia, Leo Turrini. L'amico, il telefono non ha tutti i torti, nel senso che è vero che non ci sono prove, però insomma Vettel in quelle fasi concitate ha detto in maniera esplicita via radio quello che pensa di Charlie Whiting e del suo modo di gestire i Gran Premi. Ricordiamo per chi è in macchina sulla Piero Cormano in coda perché De Boer e la famiglia hanno bloccato tutto il transito e magari chi è lì dietro De Boer non lo sa. Charlie Whiting è il direttore di gara di tutti i Gran Premi e Vettel insomma ha avuto delle espressioni molto dure. Io credo che anche questo possa aver influito sulla sanzione finale, però penso che la cosa drammaticamente vera è che la Ferrari a livello politico non conta più nulla. Questa è stata la fotografia di ieri, non solo andiamo piano in pista ma veramente contiamo come il due di coppe quando è briscola bastoni, perché la Red Bull ha alzato la voce dopo la penalizzazione di Verstappen, risultato che ha scorso nemmeno 3 ore, Vettel era dietro entrambe le Red Bull nell'ordine d'arrivo. Dopodiché non è che la Ferrari perde il Gran Premio per questo motivo, perché prima e seconda era la Mercedes. Sull'altra cosa che è stata detta a proposito del passato, si ha ragione, io c'ero, ma non solo Senna e Prost, Villeneuve e Arnoux, famoso duello di Digione, che è diciamo l'immagine per antonomasia dello spettacolo top della Formula 1, oggi con queste regole, con questi giudici, con De Blair in coda sulla Perucormano, con le valigie sulla Lamia, il Nevernu verrebbero arrestati a via Gran Premio, non arrestati, sì, come dice, arrestati, come diceva l'ascoltatore, l'ascoltatore di, come diceva l'ascoltatore prima, mentre nel moto mondiale l'anno scorso nel moto mondiale l'anno scorso è finita come sappiamo, ma non hanno messo in gabbia nessuno, assolutamente, ci mancherebbe altro, sicurezza è un valore assoluto, però si è andati troppo in là, cioè adesso basta che uno per proteggersi da un sorpasso allarghi una ruota di 20 centimetri e ti fischiano subito fallo. Ti fischiano come subito fallo Bosco, con l'ammonizione. Come diceva Bosco, che ha fatto con me l'elementare, Guisa di Bosco, io ricordo con grande affetto, compagno di scuola, rigore quando arbitro fischia. Ecco, in Formula 1 gli arbitri fischiano un po' troppo spesso. È arrivato triplice fischio anche qua, dobbiamo salutarvi ragazzi. Leo, meno male che c'è un'altra certezza nelle moto, c'è una rossa che conta, che addirittura fa cambiare il regolamento per le famose ali, aerodinamiche. Honda si è puntata, perché Ducati aveva trovato questa cosa e... quindi contro il gigante Honda la rossa conta ancora qualcosa. E meno male che c'è una rossa che va. Ragazzi, vi ringrazio. Roberto Ungaro, Leo Turrini. Ci sentiamo domani, ovviamente Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Luisa Falzone in redazione. Ci sentiamo domani. Domani saremo qui un'ora, programmazione speciale, festa. Avremo diverse cose da dire. Saremo naturalmente in diretta alle 14. Ciao. Fatto, dai. Spegni il bianco, il rosso o il verde. Dai, uno dei tre. Spegni.